ore passano e sono ancora sotto shock. È finito il viaggio e sono ancora sotto shock. Dici non ti sopporto, sotto shock. Le ore passano e sono ancora sotto shock. È finito il viaggio e sono ancora sotto shock. Dici non ti sopporto, sotto shock. Guarda come mi comporto, sotto shock. Se mi parte il rap tu vai sotto shock. Non dipende da me stare sotto shock. Parlo come un ministro, sotto shock. Questo pezzo lo registro, sotto shock. Incartato un regalo per la scena pop che fa tic tic tic tac boom. La tua roba che spacca, sì ma solo sotto il ponte di baracca. Al tuo concerto sento puzza di baccalà. Nel lavoro c'è chi va e c'è chi fugge, c'è chi sale, c'è chi scappa, c'è chi fa l'SPA. Chi la spa, chi la spacca, chi la spartizione dei beni, chi l'esportazione dei geni. Tu non mi vedi più qui come Houdini, incantatore, rap, cantautore. Queste dita veloce mi ci perdo come negli steroidi, Jerry Lewis. Se ti fai portavoce impara il gergo, l'atteggiamento giusto, il gusto, il juice. Ho mangiato uno scienziato, ora mi tornano su frasi a branchi sulle basi più poche. Indosso queste Adidas top 10, controlla da quante settimane sto in top 10. Le ore passano e sono ancora sotto shock. È finito il viaggio e sono ancora sotto shock. Dici non ti sopporto, sotto shock. Guarda come mi comporto, sotto shock. Se mi parte il rap tu vai sotto shock. Non dipende da me stare sotto shock. Parlo come un ministro, sotto shock. Questo pezzo lo registro, sotto shock. A 18 anni scopavo trentenni, a 30 anni scopavo diciottenni. Ho visto lei dal vivo senza Photoshop, e ogni volta a ripensarci vado sotto shock. Fumo controvento, scirocco, scorro giù liscio, sciroppo. Po, come Lady Gaga, da baba, saga, nada, vada se per strada. Voglio su le mani, su le mani, Armani, Bargnani, in Italia. Sembra di stare all'Ikea, in Italia. Voglio aprire una moschea, in Italia. Parto come il Mala, puti, tra alimenti scaduti che dal frigo di casa mi fanno non ci saluti. I dischi li ho venduti, da casa al web, dai grandi magazzini come Ornella Muti. Le ore passano e sono ancora sotto shock. È finito il viaggio e sono ancora sotto shock. Dici non ti sopporto, sotto shock. Guarda come mi comporto, sotto shock. Se mi parte il rap tu vai sotto shock. Non dipende da me stare sotto shock. Parlo come un ministro, sotto shock. Questo pezzo lo registro, sotto shock. Fabri Fibra, sotto shock. Di Donjo, sotto shock. Già, bro, sotto shock. Hip hop, siamo sotto shock.